Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. In camera di sua sorella, a guardarci in quel modo, sembra sempre che ci sia la nebbia. Una striscia verticale piena di cose, con l'intorno l'offuscarsi dell'ombra. E tutto sembra cambi dimensioni se si avvicina o allontana l'occhio dalla fessura. Sembra di guardare attraverso una calza da donna. E anche l'odore è lo stesso. L'odore di sua sorella che comincia al di là della porta di legno e emana forse da quelle vesti gualcite e da quel letto mai rifatto, rincalzato senza fargli prendere aria. La sorella di Pin è sempre stata sciatta nelle faccende di casa, fin da bambina. Pin faceva dei grandi pianti in braccio a lei, da piccolo, con la testa piena di croste, e allora lei lo lasciava sul muretto del lavatoio e andava a saltare con i monelli nei rettangoli tracciati col gesso sui marciapiedi. Ogni tanto tornava la nave del loro padre, di cui Pin ricorda solo le braccia, grandi e nude, che lo sollevavano in aria, forti braccia segnate da vene nere. Ma da quando la loro madre è morta, le sue venute sono state sempre più rade, finché nessuno l'ha più visto. Si diceva che avesse un'altra famiglia in una città di là dal mare. Ora, per abitarci, Pin più che una camera ha un ripostiglio, una cuccia al di là d'un tramezzo di legno, con una finestra che sembra una feritoia, stretta e alta com'è, e profonda nello sbieco del muro della vecchia casa. Di là c'è la camera di sua sorella, filtrata dalle fessure del tramezzo, fessure da farsi venire gli occhi strabici a girarli per vedere tutto intorno. La spiegazione di tutte le cose del mondo è lì dietro quel tramezzo. Pin ci ha passato ore e ore, fin da bambino, e ci ha fatto gli occhi come punta da spilli. Tutto quel che succede là dentro, lui lo sa. Pure, ancora la spiegazione del perché gli sfugge. E Pin finisce per aggomitolarsi ogni notte nella sua cuccetta, abbracciandosi il petto. Allora le ombre del ripostiglio si trasformano in sogni strani, di corpi che si inseguono, si picchiano e s'abbracciano nudi, finché viene un qualcosa di grande e caldo e sconosciuto che sovrasta su di lui, Pin, e lo carezza e lo tiene nel caldo di sé. E questo è la spiegazione di tutto, un richiamo lontanissimo di felicità dimenticata. Ora il tedesco gira per la camera in maglietta, con le braccia rose e cicciose come cosce, e ogni tanto viene a fuoco della fessura. A un certo punto si vedono anche le ginocchia della sorella che girano per aria ed entrano sotto le lenzuola. Finora deve contorcersi per seguire dove viene posato il cinturone con la pistola. È lì appesa a una spalliera di seggiola come uno strano frutto. E Pin vorrebbe avere un braccio sottile come lo sguardo da far passare nella fessura per prendere l'arma e tirarla verso di sé. Ora il tedesco è nudo, in maglietta, e ride. Ride sempre quando è nudo, perché ha un fondo d'animo pudico, da ragazza. Salta nel letto e spegne la luce. Pin sa che passerà un po' di tempo così nel buio e in silenzio, prima che il letto cominci a gemere. Ora è il momento. Pin dovrebbe entrare nella camera scalzo e carponi e tirare giù senza far rumore il cinturone dalla sedia. Tutto questo non per fare uno scherzo e poi ridere e canzonare, ma per qualcosa di serio e misterioso, detto dagli uomini dell'osteria con un riflesso opaco nel bianco degli occhi. Pure a Pin piacerebbe essere sempre amico con i grandi e che i grandi scherzassero sempre con lui e gli dessero confidenza. Pin ama i grandi. Ama fare dispetti ai grandi forti e sciocchi di cui conosce tutti i segreti. Ama anche il tedesco. E ora questo sarà un fatto irreparabile. Forse non potrà più scherzare col tedesco dopo questo. E anche con i compagni dell'osteria sarà diverso. Ci sarà qualcosa che lo lega a loro su cui non si può ridere e dire cose oscene e loro lo guarderanno sempre con quella riga dritta tra le sopracciglia e gli chiederanno a bassa voce cose sempre più strane. Pin vorrebbe sdraiarsi nella sua cuccetta e stare a occhi aperti e fantasticare mentre il tedesco di là sbuffa e la sorella fa dei versi come per un solletico sotto le ascelle. fantasticare di bande di ragazzi che lo accettino come loro capo, perché lui sa tante cose di più di loro, e tutti insieme andare contro i grandi e picchiarli e fare cose meravigliose, cose per cui anche i grandi siano costretti a ammirarlo e a volerlo come capo, e insieme a volergli bene e accarezzarlo sulla testa. Ma invece lui deve muoversi nella notte solo e attraverso l'odio dei grandi e rubare la pistola al tedesco, cose che non fanno gli altri ragazzi che giocano con pistole di latta e spade di legno. Chissà cosa direbbero se domani Pina andasse in mezzo a loro e, scoprendola, a poco mostrasse loro una pistola vera, lucida e minacciosa, e che sembra stia per sparare da sola. Forse loro avrebbero paura, e anche Pin forse avrebbe paura a tenerla nascosta sotto il giubbetto. Gli basterebbe una di quelle pistole per bambini che fanno lo sparo con una striscia di fulminanti rossi, e con quella fare tanto spavento ai grandi da farli cadere svenuti e chiedergli pietà. Invece ora Pin è carponi sulla soglia della stanza, scalzo, con la testa già al di là della tenda in quell'odore di maschio e femmina che dà subito alle narici. Vede le ombre dei mobili nella stanza, il letto, la sedia, il bidè bislungo con le gambe a trespolo. Ecco, dal letto ora comincia a sentirsi quel dialogo di gemiti. Ora si può avanzare carponi badando di far piano. Però forse Pin sarebbe contento che il pavimento scricchiolasse, il tedesco sentisse e tutto un tratto accendesse la luce e lui fosse obbligato a scappare scalzo con sua sorella dietro che gli grida «Porco!» e che tutto il vicinato sentisse e se ne parlasse anche all'osteria e lui potesse raccontare la storia all'autista e al francese con tanti particolari da essere creduto in buona fede e da far dir loro «Basta, è andata male, non ne parliamo più». Il pavimento scricchiola difatti, ma molte cose scricchiolano in quel momento e il tedesco non sente. Pin già è arrivato a toccare il cinturone. E il cinturone al contatto è una cosa concreta, non magica. E scivola giù dalla spalliera della sedia in modo spaventosamente facile, senza nemmeno battere contro terra. Adesso la cosa è successa. La paura finta di prima diventa paura vera. Bisogna aggomitolare in fretta il cinturone intorno alla fondina e nascondere tutto sotto il maglione, senza impastoiarsi braccia e gambe. Poi tornare a quattro piedi sui propri passi, pian piano, e senza mai togliere la lingua di tra i denti. Forse se si togliesse la lingua di tra i denti succederebbe qualcosa di spaventoso. Una volta fuori, non c'è da pensare a tornare nella sua cuccetta a nascondere la pistola sotto il materasso come le mele rubate al mercato della frutta. Tra poco il tedesco s'alzerà e cercherà la pistola e metterà tutto a soqquadro. Pin esce nel carrugio. Non è che la pistola gli bruci addosso. Così nascosta nei suoi vestiti è un oggetto come un altro e ci si può dimenticare d'averla. Spiace anzi questa propria indifferenza. E a ricordarsene Pin vorrebbe gli prendesse un brivido. Una pistola vera. Una pistola vera. Pin cerca di eccitarsi col pensiero. Uno che ha una pistola vera può tutto, è come un uomo grande. Può far fare tutto quello che vuole alle donne e agli uomini minacciando di ucciderli. Pin ora impugnerà la pistola e camminerà sempre con la pistola puntata. Nessuno potrà togliergliela e tutti ne avranno paura. Invece ha sempre la pistola avvolta nel gomitolo del cinturone sotto il maglione e non si decide a toccarla. Spera quasi che quando la cercherà non ci sia più, si sia smarrita nel calore del suo corpo. Il posto per guardare la pistola è un sottoscala nascosto, dove si caccia per giocare a rimpiattino e arriva un riverbero di luce da un lampione guercio. Pin svolge il cinturone, apre la fondina e con un gesto che sembra tiri un gatto per la collottola estrae la pistola. È davvero grossa e minacciosa. Se Pin avesse il coraggio di giocarci farebbe finta che fosse un cannone. Ma Pin la maneggia come fosse una bomba. La sicura? Dove avrà la sicura? Alla fine si decide a impugnarla, ma bada a non mettere le dita sotto il grilletto, tenendo ben forte l'impugnatura. Pure così si può impugnare bene e puntarla contro quello che si vuole. Pilla punta prima contro il tubo della grondaia, a bruciapelo sulla lamiera, poi contro un dito, un suo dito, e fa la faccia feroce, tirando indietro la testa e dicendo tra i denti «La borsa o la vita!». Poi trova una scarpa vecchia e la punta contro la scarpa vecchia, contro il calcagno, poi nell'interno, poi passa la bocca dell'arma sulle cuciture della tomaia. È una cosa molto divertente. una scarpa, un oggetto così conosciuto, specie per lui, garzone ciabattino, e una pistola, un oggetto così misterioso, quasi irreale. A farli incontrare uno con l'altro si possono fare cose mai pensate, si possono far loro recitare storie meravigliose. A un certo punto Pin non resiste più alla tentazione e si punta la pistola contro la tempia. È una cosa che dà le vertigini. Avanti fino a toccare la pelle e sentire il freddo del ferro. Si potrebbe posare il dito sul grilletto adesso. No, meglio premere la bocca della canna contro lo zigomo fino a farsi male e sentire il cerchio di ferro con dentro il vuoto dove nascono gli spari. A staccare l'arma dalla tempia di botto, forse il risucchio dell'aria farà esplodere un colpo. No, non esplode. Ora si può mettere la canna in bocca e sentire il sapore sotto la lingua. Poi, cosa più paurosa di tutte, portarla agli occhi e guardarci dentro, nella canna buia che sembra fonda come un pozzo. Una volta Pin ha visto un ragazzo che si era sparato in un occhio con un fucile da caccia mentre lo portavano all'ospedale. Aveva un gran grumo di sangue su mezza faccia e l'altra mezza tutta puntini neri della polvere. Ora Pin ha giocato con la pistola vera. Ha giocato abbastanza. Può darla a quegli uomini che gliel'hanno chiesta. Non vede l'ora di darla. Quando non l'avrà più, sarà come se non avesse rubata. Il tedesco avrà un bel andare in bestia con lui. Lui lo potrà di nuovo prendere in giro. Il primo impulso sarebbe di entrare nell'osteria di corsa, annunciando agli uomini «Ce l'ho e non mi scappa!» tra l'entusiasmo di tutti che esclamano «Ma no!» Poi gli sembra che sia più spiritoso chiedere loro «Indovina cosa ho portato?» e farli spazientire un po' prima di dirlo. Ma certo loro penseranno subito alla pistola. Tanto vale entrare subito in argomento e cominciare a raccontar loro la storia in 10 maniere differenti, facendo capire che è andata male, e quando loro sono più sulle spine non si raccapezzano più, posare la pistola sul tavolo e dire «Guarda cosa mi sono trovato in tasca!» e vedere un po' che faccia fanno. Pin entra nell'osteria in punta di piedi, zitto. Gli uomini parlottano sempre intorno a un tavolo, coi gomiti che sembra ci abbiano messo radici. Solo quell'uomo sconosciuto non c'è più e la sua sedia è vuota. Pin è dietro a loro e non se ne sono accorti. Lui si aspetta che tutto un tratto lo vedano e sussultino, facendogli piovere addosso una doccia di sguardi interrogativi, ma nessuno si volta. Pin muove una sedia. Giraffa torce il collo, lo smiccia. Poi torna a parlare piano. «Begli uomini!» fa Pin. Gli danno un'occhiata. «Brutto muso!» gli fa Giraffa, amichevole. Nessuno dice più niente. «Allora?» fa Pin. «Allora?» dice Gian l'autista. «Cosa ci racconti di nuovo?» Pin è un po' smontato. «Beh», fa il francese, «sei giù di morale? Cantacene un po' una, Pin!» Qui, pensa Pin, fanno l'indiano anche loro, ma non stan più nella pelle dalla curiosità. «Ale!» dice, ma non attacca. Ha la gola appiccicata, secca, come quando si ha paura di piangere. «Ale!» ripete. «Quale vi canto?» «Quale?» fa Michel. E Giraffa. «Che barba stasera, vorrei già essere a dormire!» Pin non ne può più del gioco. «E quell'uomo?» chiede. «Chi?» «Quell'uomo seduto lì, prima!» «Ah!» dicono gli altri e scuotono il capo. Poi riprendono a parlottare tra loro. «Io!» dice il francese agli altri. «Con questi del comitato non mi comprometterei troppo. Non me la sento di andar di mezzo per la faccia loro.» «Beh», dice Gian l'autista, «noi cosa si è fatto?» «Si è detto vedremo. Intanto è bene averci un collegamento con loro, senza impegnarci e prendere tempo. Io coi tedeschi poi c'ho un conto da regolare da quando s'era al fronte insieme, e se c'è da battermi mi batto volentieri.» «Beh», dice Michel, «guarda che coi tedeschi non si scherza e non si sa come andrà a finire. Il comitato vuole che facciamo il gap. Bene, noi facciamo il gap per conto nostro.» «Intanto», fa Giraffa, «gli facciamo vedere che siamo dalla loro e ci armiamo. Una volta che siamo armati...» Pin è armato. Sente la pistola sotto la giacchetta e ci mette una mano sopra, come se gliela volessero portar via. «Ne avete armi voi?» chiede. «Non ci starà a pensare», fa il Giraffa. «Tu pensa a quella pistola del tedesco, siamo intesi?» Pin rizza gli orecchi. Ora dirà «Indovinate!» dirà. «Guarda un po' di non perderla d'occhio se ti capita sotto mano.» Non è come Pin avrebbe voluto. Perché importa loro tanto poco adesso? Vorrebbe non aver ancora preso la pistola, vorrebbe tornare dal tedesco e rimetterla al suo posto. Per una pistola, dice Michel, non vale la pena di rischiare. Poi è un modello antiquato, pesante, si inceppa. E intanto, dice Giraffa, bisogna far vedere al comitato che facciamo qualcosa. Questo è importante. E continuano a parlottare sottovoce. P non sente più niente. Ormai è sicuro che non darà loro la pistola. Ha i lucciconi agli occhi e una rabbia gli stringe le gengive. I grandi sono una razza ambigua e traditrice. Non hanno quella serietà terribile nei giochi proprio dei ragazzi. Pure hanno anch'essi i loro giochi, sempre più seri, un gioco dentro l'altro che non si riesce mai a capire qual è il gioco vero. Prima sembrava che giocassero con l'uomo sconosciuto contro il tedesco. Adesso da soli contro l'uomo sconosciuto. Non ci si può mai fidare di quello che dicono. Beh, quanta ce n'è un po' una, Pin, dicono adesso, come se nulla fosse successo, come se non ci fosse stato un patto severissimo tra lui e loro, un patto consacrato da una parola misteriosa, gap. Ale, fa Pin, con le labbra che gli tremano, pallido. Sa che non può cantare. Vorrebbe piangere. E invece scoppia in uno strillo inì che schioda i timpani e finisce in uno scatenio di improperi. Bastardi, figli di quella cagna impestata di vostra madre, vacca sporca, lurida puttana! Gli altri stanno a guardare cosa gli è preso, ma Pin è scappato dall'osteria. Fuori, il primo impulso sarebbe di cercare quell'uomo, quello che chiamano comitato, e dargli la pistola. Ora è l'unica persona che Pin sente di rispettare, anche se prima, così zitto e serio, gli ispirava diffidenza. Ma adesso è l'unico che potrebbe comprenderlo, ammirarlo per il suo gesto, e forse lo prenderebbe con sé a fare la guerra contro i tedeschi, loro due soli, armati di pistola, appostati agli angoli delle vie. Ma comitato, chissà dov'è adesso, non si può chiedere in giro, nessuno l'aveva mai visto prima. La pistola rimane a Pin, e Pin non la darà a nessuno, e non dirà a nessuno che ce l'ha. Solo farà capire che è dotato di una forza terribile e tutti lo obbediranno. Chi ha una pistola vera dovrebbe fare dei giochi meravigliosi, dei giochi che nessun ragazzo ha fatto mai. Ma Pin è un ragazzo che non sa giocare, che non sa prendere parte ai giochi né dei grandi né dei ragazzi. Pure adesso Pin andrà lontano da tutti e giocherà tutto solo con la sua pistola. Farà giochi che nessun altro conosce e nessun altro potrà mai sapere. Thank you.